Vorrei chiarire il primo punto, quello da cui tu parti, sicuramente è un modo, diciamo, poco chiaro da parte mia di esprimermi sulla questione del consumatore. Cioè, io ho fatto un lavoro 2 anni fa che si intitola Il consumatore lavorato, proprio per mostrare come ci sia nel passaggio alla società globale una trasformazione della nozione di consumo e di consumatore, tal che oggi quando noi sia le aziende che noi pensiamo al consumatore, non lo pensiamo più come una figura del mercato, quindi la classica figura, cioè il lavoratore e il consumatore, ma la pensiamo come una figura degradata della cittadinanza. Cioè il consumatore è semplicemente un cittadino che ha perso, diciamo così, almeno la mitologia della cittadinanza. Voi sapete che la nozione di cittadinanza è una nozione che è nata con la rivoluzione francese, in particolare ha cominciato a svilupparsi intorno all'idea di diritti, no? C'è più cittadinanza se ci sono più diritti sociali, diritti politici, diritti di varia natura, no? La crescita dei diritti è una crescita della cittadinanza. Con, diciamo così, la nuova società globale, il nuovo modello, diciamo, di sviluppo ha pensato invece una trasformazione del cittadino in consumatore, e cioè ha tolto l'idea di diritto, no? E ha detto: tu i diritti, se vuoi, te li compri, cioè come tutte le altre cose. E in ciò, in qualche modo, noi abbiamo iniziato a fare un percorso che ha cominciato a tornare indietro. Ora noi siamo a un certo punto di questo declino, un punto estremamente grave, perché è un punto che ridifferenzia tutti i corpi sociali in base al loro, diciamo, statuto economico, cioè avranno più o meno diritti a seconda del fatto che avranno più o meno denaro. In questo percorso qui è indubbio che ci sono dei movimenti che sono usciti da questa logica. Sono i movimenti che non si oppongono tanto a questo percorso sulla base dell'idea: voglio poter consumare un po' di più, quindi voglio avere la macchina bella anch'io, 5 case e lo yacht, come dire. Quindi nella corsa al consumo, nello sviluppo del modello che produce il consumo. Ma sono, diciamo, quei gruppi sociali che hanno cominciato a pensare il consumo dentro un altro modello di sviluppo, cioè il consumo e la produzione della vita dentro un altro modello di sviluppo. È una discussione che è in corso, cioè anche in Europa, anche in Italia, probabilmente in mezzo a voi, molti la stanno attraversando questa discussione, ma è anche una discussione assolutamente oggi difficile da contestualizzare, perché gli stessi esempi che tu facevi, Val di Susa eccetera, non sono degli esempi che ci possono mettere in trasparenza il problema di un modello di sviluppo che consenta un'idea di consumo, no, come dire, diversa. No, ci abbiamo sicuramente molti tentativi, c'è molta gente che cerca di autonomizzarsi nelle sue fonti di produzione, nelle sue fonti energetiche, nelle reti comunitarie, nei consumi critici, nel consumo equo e solidale e via di seguito. Abbiamo tantissimi di questi tentativi, ma abbiamo anche, noi lo abbiamo visto in parte nel libro che citavo prima, nella ricerca che ho fatto, abbiamo visto anche i grandi limiti. Prendete il commercio equo e solidale, che nasce da un'idea profondamente diciamo ricca, l'idea di sostenere, diciamo così, quella parte di produttori a livello mondiale fortemente penalizzata dalla grande distribuzione, cioè dal modello di sviluppo di Walmart, per intenderci, che dicevo. Eppure il consumo equo e solidale ad un certo punto anche in Italia fa la scelta di andare a piazzare, diciamo, i suoi corner, i suoi angoli all'interno della grande distribuzione, Ora il consumo equo e solidale dipende dal fatturato che fa nella grande distribuzione e le botteghe del mondo, tutte queste cose che chiudono una dopo l'altra. Quindi quello che era un'idea che, per dire, Alex Zanotelli, cioè, aveva messo al centro in modo molto lucido, dicendo: guarda che le botteghe non sono luoghi dove si compra e si vende del miele, sono dei luoghi dove ci si incontra, cioè semmai si vende e si compra un nuovo modello di sviluppo, cioè si ragiona e si pensa in una maniera diversa. Ebbene, quelle botteghe chiudono una dopo l'altra. Noi abbiamo una rete di lettori di Sensibili alle Foglie che attraversa questi mondi, e è terribile dover constatare che ogni tanto qualcuno ci manda una mail dicendo: guarda, non mandarmi più il libro a quel negozio, mandamelo a casa perché il negozio l'abbiamo chiuso, non ci abbiamo più. Mentre il fatturato all'interno di Esselunga cresce. Ma Esselunga ha costruito il corner dell'equo e solidale a fianco di quello della Nestlé, che è, diciamo, un'azienda che casomai molti che sostengono il commercio equo e solidale boicottano, cioè per mille ragioni che non sono oggetto di questa discussione, ma che molti di voi conoscono. Ecco, allora è questa, diciamo, la poca trasparenza che io vedo e la difficoltà che incontro. Mi interessa però, per non farla troppo lunga su questo punto, solo mettere in evidenza un punto, che quando parlo di consumatore nella dimensione, diciamo, della società planetaria, non ne parlo più come di una figura del mercato classica, keynesiana: c'è chi compra, c'è chi vende, c'è chi produce, perché ciò non esiste più. Le grandi aziende, Walmart, Auchan, Carrefour, producono insieme a ciò che vendono il consumatore. Il consumatore è, come dire, lavorato molto prima che lui esista. E vi faccio un esempio: si decide di vendere mercoledì 12 gennaio 2008 700.000 pezzi, 700.000 lavatrici, va bene? Questa è una decisione che prende un ufficio a Zagabria, a Bruxelles, a Berlino, è una decisione per il nostro programma di sviluppo come azienda. Mercoledì 18 gennaio noi venderemo. Come si fa a venderle? Molto semplice: 700.000 sono un enorme numero. Si va dalle aziende, si fa uno stock di costi. Se me ne dai 700.000, quanto me ne dai? È ovvio che se ne prendi 700.000 te le do, che ne so, a 50 euro l'una, massimo. Bene, e io le venderò sotto costo per quel giorno, no? Minando i prezzi, apparentemente i prezzi di mercato in un luogo, no? In 500 punti di vendita, dove ne metterò in ogni punto di vendita 5 o 6 pezzi numerati. È una cosa che vedete tutti i giorni. Quel giorno, davanti a quel negozio, non ci saranno 20 persone per comprare le 20 lavatrici che lì ci sono, ma ce ne saranno 2000. Perché ovvio, la gente ha i soldi che ha in tasca, sarà una grande occasione per una famiglia, finalmente si comprerà la lavatrice a sostituire a quella rotta, a un prezzo casomai stracciato. Ma per l'azienda che ha prodotto quel consumatore, che non si sarebbe comprato la lavatrice, è un affare colossale, gigantesco, è un affare legato al numero. E oggi tutto il sistema delle vendite è pensato così, con promozioni, fidelizzazioni, eccetera. Vari lavori che noi abbiamo fatto nella grande distribuzione milanese, cioè cercano di mettere a punto proprio come oggi non siamo più di fronte alla classica società dei consumi in cui c'era un'azienda che produceva una macchinetta da caffè. Aveva, diciamo, un'idea brillante, uno diceva: ma che bella macchinetta da caffè, la Moka, la faccio su, poi adesso cerco di venderla, e poi faceva la pubblicità alla sua macchinetta. Un cittadino girando dice: oh, ma guarda che bella quella macchinetta, adesso me la vado a comprare. Questo era il classico. In mezzo c'era la pubblicità. La pubblicità andava sulle onde dei giornali, delle radio, delle televisioni, a scavare nelle motivazioni delle persone per cercare di indurle, no, a comprare quel prodotto che era stato fatto. Questa è la società dei consumi. questa società è finita da quando una grandissima azienda, che è la NATO, che conoscete tutti, no? Ha detto, ma se è vero, se questo dispositivo funziona così, no? Allora perché noi dobbiamo produrre le scarpe che vendiamo? Ragionateci, è un ragionamento ovvio. Dice, se il mio problema è dover vendere a qualcuno una cosa che ho fatto, perché non posso rovesciare il ragionamento? Vendere a qualcuno una cosa prima di averla fatta. E una volta che poi gliel'ho venduta la faccio fare. Di qui allora Nike ha fatto la scelta di chiudere tutti i suoi stabilimenti di scarpe. Li ha chiusi tutti quanti e li ha trasformato la Nike in un'enorme azienda mondiale che vende un singolo. Fatti i prototipi e una volta che ha capito qual è, diciamo, il funzionamento del suo simbolo, no? Fa fare le scarpe in Indonesia. Oggi questa cosa qui la vedete nei giocattoli che hanno i vostri figli, i nipoti, la Mattel, le Barbie. Ebbene, la Mattel non fa più le Barbie, le faceva anni fa, quando eravamo una società di consumi. Oggi la Mattel non fa più niente. In Italia ha chiuso tutti gli stabilimenti 2 o 3 anni fa, in tutto il resto del mondo non ne ha più neanche uno. I giocattoli Mattel si fanno in Cina, la Mattel fa i prototipi, vale a dire fa delle grandi campagne pubblicitarie, all'ora in cui i figli sono davanti alla televisione a vedersi i cartoni, vende una cosa che non c'è, che non è stata fatta, che non è ancora neanche prodotta, no? E dalla risposta che ne viene fuori decide quante bambole fare ordinare via email a uno stabilimento che è nel profondo della Cina, che nel giro di un giorno le farà avere con un aereo a Berlino, Tokyo, Zurigo, Milano, cioè nelle città in cui si è arrivati addirittura al punto che quest'anno si è ripetuto l'anno scorso, che delle aziende hanno promosso un prodotto, no? In tutte le reti televisive, molta gente è andato per comprarlo e non l'ha trovato, e i negozianti, diciamo le grandi catene di distribuzione, hanno esaudito, l'abbiamo già venduti tutti i pezzi, perché questa è la risposta che viene data. Ma in realtà il motivo era che non era stato prodotto, perché l'onda di richiesta alle reti era inferiore ai 12 milioni di pezzi che loro avevano stabilito come limite minimo per iniziare a produrlo. Capite come funziona il problema del consumatore? Che viene prodotto insieme al suo consumo. E oggi possiamo articolare questo ragionamento in 1000 esempi, cioè diciamo così, che lo mostrano molto bene. Ma questo è un problema estremamente serio. È un problema estremamente serio perché è un nuovo, diciamo così, è un nuovo stadio, diciamo, della nostra perdita di libertà. La nostra perdita di libertà. Uno stadio che è moltiplicato dal fatto che molti lavoratori oggi sono indotti a questo tipo di consumo da queste stesse grandi strutture che invece di pagarli in denaro li pagano in carte di credito. Auchan è all'avanguardia di questa nuova tecnologia del controllo sociale, che consiste nel dire ti do 700 euro al mese, non di più, tu non ci campi, ma siccome io so che tu non ci campi, insieme ai 700 euro, se tu lavori molto e ti presti anche a un alto livello di flessibilità, di orario, di mansione, di spazio, ti do una bella carta di credito di 5.000 euro, così tu potrai continuare a consumare comunque in tutti i miei circuiti, che sono ovviamente anche quelli del petrolio, della telefonia mobile, e diciamo di tutto l'indotto della grande distribuzione. Tenete presente che oggi il 70% del consumo in Italia è dentro queste poche reti. E siamo di fronte. Io vivo in una zona, cioè nelle Langhe, che adesso è diventata l'epicentro europeo del più grosso centro commerciale d'Europa. Hanno fatto un centro commerciale di 350.000 metri quadrati. Immaginate di che cosa colossale è. E il raggio di acquisto, Io non ci credevo quando lo stavano facendo che potesse funzionare. Il raggio di acquisto per loro era di 250 km. Allora, mi sembrano un po' matti. Cioè, da quando l'hanno aperto, un mese fa, l'hanno aperto proprio sotto Natale, i piazzali sterminati di questa cosa qui sono dalla mattina alla sera pieni, attraverso una serie di operazioni che raggiungono l'Olanda, il Belgio, del Made in Italy venduto sotto costo con viaggi organizzati da vari paesi europei, e ti arrivano lì ad un certo punto come olio a zecca, cioè che vicino, cioè che funziona ormai in questo modo, cioè con l'aereo a bocca di centro commerciale. Allora qui capisci la produzione del consumatore che diventa un problema, è quello di cui io parlo. Ecco. Poi c'è invece il problema della produzione e del consumo della vita, cioè in un'altra maniera. Io mi auguro che questo trovi delle vie per manifestarsi, ma sono anche molto molto, come dire, indeciso in questo momento tra due possibili alternative, una molto pessimistica, cioè molto molto pessimistica per ciò che vedo col mio lavoro di ricerca, direi che è molto difficile che questa società abbia di fronte a sé una via di uscita che non sia una via di uscita piuttosto, diciamo, pesante, diciamo così. Ecco. Che è la stessa questione dei rifiuti e della la crescita esponenziale, per esempio, degli esclusi di questa società. E di quella americana non ne parliamo, noi abbiamo un penale in America ormai che è di circa 9 milioni di persone, quindi cioè abbiamo un ampliamento progressivo delle istituzioni totali di contenimento, no? E di frantumazione della parte frantumata, no? E in Italia cioè non è che si vada molto meglio, cioè è più lento il processo, ma per esempio tutti gli istituti vengono riconvertiti, cioè gli istituti per minori, no? Oggi non sono più molto frequentate dai bambini italiani, ma sono stracolmi di bambini stranieri, no? Le strutture post-manicomiali, che si chiamavano nelle leggi italiane strutture intermedie residenziali, e che dovevano costruire il transito dal manicomio all'accoglimento sociale, con strutture da immaginare, come pensava Basaglia, a livello di comunità, di territorio, no? Oggi non solo sono regredite, ma costruiscono in modo amplificato i dispositivi manicomiali in luoghi piccoli, quindi in situazioni. Il controllo farmacologico, no? Dentro le carceri è arrivato a dei livelli assolutamente impressionanti. Sono andato a Cagliari a fare un giro di conferenze per parlare del libro di un ergastolano sardo, che è Nino Mede, che scrive dei libri molto belli, che noi portiamo anche. Bene, quando eravamo a Cagliari abbiamo visto il carcere del Buon Cammino di Cagliari, no? Su 300 reclusi, il 60% di questi 300 reclusi ha problemi psichiatrici, viene classificato con problemi psichiatrici, vale a dire sono dei consumatori di sostanze che vengono però inchiodati a un'etichetta non solamente più legata all'abuso o all'uso di sostanze, ma viene invece ormai legata a una patologia di ordine psichiatrico. Ecco, queste sono, diciamo, alcune delle misure che ci dicono quali preoccupanti tendenze sono in atto, compresa quella dei centri di permanenza temporanea, dell'espulsione dei nomadi, del problema che veniva sollevato, che è un problema su cui, per carità di patria, io non ho detto nulla, ma che, diciamo così, è un problema che funziona in questo modo. Il sindaco di Pavia, no, che decide ad un certo punto che ne ha le tasche piene dei rom che vivono lì a Pavia da secoli, no, prende un pullman, li carica sopra come se fossero sacchetti di immondizia, li porta 50 km più in là e li scarica in discariche pubbliche, no? Non abusive. Cioè, te scendi qua, te scendi 7 km più. Questa gente che vuoi che faccia? Le popolazioni li circondano come se fossero minacciosi turchi che sono venuti a conquistare l'Italia, no? E li caccia. Tu non devi stare qua. E tu li vedi migrare, che devi fare? Sono stato alla Fiera del Libro di Roma i primi giorni di dicembre, non andavo a Roma da diversi anni, io sono anche romano, ci ho vissuto tantissimi anni, ho dovuto prendere il treno a Ostiense, che è una delle due grandi stazioni di Roma, a mezzanotte e mezza. Ho avuto la fortuna che quel treno arrivasse con un'ora di ritardo, e quindi fortuna perché mi sono aggirato così per la stazione, perché non era aperto neanche un bar, e ho contato 160 persone che dormivano per terra nell'atrio della stazione. Ora, questo nella capitale italiana, in un paese che si vanta di essere un paese civile, 160, non rom, non immigrati, donne anziane, uomini anziani, gente che semplicemente non aveva un posto dove dormire. Questo è quello che mi fa essere, come dire, piuttosto pessimista, perché è ovvio che se quegli uomini avessero avuto qualche lira in più in tasca, come a Berlusconi per esempio, sicuramente sarebbero andati a dormire in un albergo e non alla stazione di Roma. Ecco. Ma nessuno, ma proprio nessuno, pur essendoci una temperatura glaciale, no? Nel comune di Roma, nella provincia di Roma, nella regione di Roma, nel Parlamento di Roma, è andato lì e gli ha detto: è una vergogna che tu, che hai 90 anni, cioè devi dormire lì all'addiaccio per terra su un giornale. Quindi, cioè, che vuoi? Ci sono 5.000 case sfitte a Roma, cioè ne requisiamo 3, no? E per, diciamo, un minimo, diciamo, di senso umanitario, di rispetto dei diritti della persona, no? Vai a dormire in questo posto qua. Questo io non lo vedo. Vedo che se uno ha i soldi se lo compra il posto in albergo, ma se non ce li ha, dorme alla stazione di Roma. Eppure c'è un sindaco che si dice, no, estremamente sensibile ai problemi della popolazione civile. Ecco, questo mi fa dire che l'idea di consumo di cui parlavo prima, no, stia diventando molto pericolosa, perché non coincide più, diciamo così, col mercato, ma invece coincide con l'assenza di diritti. Renato, tu ci hai detto un po', c'è stato un po' un'analisi di tutto questo, no? E questo qui mi fa venire una domanda: cosa dobbiamo fare? Cosa faresti tu? Non chiedetelo a me, io cosa faccio, posso dire, non cosa dovete fare voi. No, già una volta nella mia vita ho avuto l'idea di pensare cosa potessero fare anche altri, e meglio che non ripeta quel tipo di tempo. Cosa faccio io? Cosa faccio io? Io faccio un lavoro che è questo, faccio ricerca su questi temi della vita sociale. Abbiamo parlato di alcuni, e per chi vuole poi li può vedere anche altri temi di cui noi ci interessiamo. Riteniamo che far ricerca sia importante farlo fuori dalle università, fuori dall'accademia, e quindi per quanto nel nostro, diciamo, nella nostra cooperativa ci sono anche docenti importanti delle università europee, come Giorgio Lapassati, che è prorettore all'Università di Parigi, o Piero Fumarolo, tanti altri che sono docenti nelle università italiane. Noi pensiamo di fare ricerca fuori dall'università, fare ricerca su committenze sociali e non su committenze di potere, e trasformare, diciamo, questa attività che è faticosa e che costa dei soldi attraverso un rapporto diretto con la popolazione. Per cui io giro tutta l'Italia con un monaco, no? Con i lavori che faccio io, che fa Nicola Valentino, che fanno tanti altri, e li porto all'incontro nelle comunità montane. Qui ringrazio chi mi invita, vado a parlare dei lavori che facciamo, e ci vado, diciamo, insieme alla mia maglia, mi porto anche i libri, sperando che qualcuno li compri e che questo ci consenta di andare avanti. In un rapporto diretto, in un rapporto diretto dove tu verifichi ciò che fai direttamente, giorno per giorno. Cioè, se il mio miele è buono, qualcuno lo compra e dopodomani forse mi comprerà ancora un altro barattolo del mio miele. Cioè, noi portiamo libri, ricerche, no? E li portiamo così fuori dalla grande distribuzione. Siamo usciti dalla grande distribuzione. Eravamo col più grosso distributore italiano, la PDE. Abbiamo detto no, andiamo all'incontro con la gente e facciamo un'editoria così. Siamo contenti, alcuni dei nostri saggi, senza che noi facessimo neanche pubblicità, sono stati tradotti in Francia, in Spagna, in Croazia, in Germania, e questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che comunque c'è un'attenzione per il nostro lavoro. Ecco, ci auguriamo di far crescere questo ambito d'attenzione, perché noi viviamo di questo. E quello che io penso è fare un buon cortocircuito andando di persona a portare il mio lavoro. Perché di persona è un'altra cosa dal mettere un libro sul bancone di una libreria. Anche perché oggi mettere un libro sul bancone di una libreria significherebbe entrare in quella logica di fare, diciamo, vendere il libro prima. Pensate, io ho fatto un solo libro fuori, diciamo, all'inizio, prima ancora di che nascesse Sensibile alle Foglie, con Mondadori, un libro che si intitola A viso aperto. Questo libro è stato programmato da Mondadori prima che io lo scrivessi in 100.000 copie. Questo libro è stato pagato a me, a Scialoia, no? Prima che noi iniziassimo a scriverlo, e quando io ho chiesto al direttore editoriale che mi aveva fatto questa proposta, peraltro estremamente vantaggiosa, cioè dal punto di vista economico, come lui pensasse e perché lui pensasse che ne avrebbe, poteva pagarmi prima, tant'è che sicuramente ne avrebbero venduto 100.000 copie, lui mi ha detto: perché noi i libri li programmiamo nelle vendite tutti, non il tuo. Noi programmiamo prima quante copie di un libro venderemo, e abbiamo 700 giornali, 5.000 televisioni. Stabiliamo che quel libro lì ha un tempo di 48 giorni nella rete di librerie, che devono per forza venderlo, perché se no non gli diamo gli altri libri, come dire, cioè funziona in un certo modo il dispositivo. Ne hanno venduto 100.000 copie e poi hanno chiuso il problema. Non hanno più parlato. E così fanno. Il tempo medio di un libro della grande distribuzione oggi, c'era nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, è di 28 giorni. I libri vengono programmati, no, a scadere. Stanno 28 giorni, poi, cioè, per un po', per due o tre mesi restano i resti, ma non vengono più giocati perché sono sostituiti da altri. Bene, noi abbiamo dei libri che invece vanno avanti da 15 anni, cioè parlano di storie terribili che purtroppo persistono e quindi, come dire, li rendono sempre molto attuali. Dai, vi sarete stancati molto perché ho parlato prevalentemente io, mi scuso di tutto ciò, vi ringrazio. Se volete anche vedere. Ma nei vari libri che hai scritto e tra gli incontri con la gente che hai avuto, c'è un messaggio in particolare che hai cercato di far arrivare, qualcosa che senti più tuo, che vuoi trasmettere? Sì, sì, il messaggio è uno solo, cioè che dobbiamo, diciamo, fare molto lavoro per passare da una società opaca a una società trasparente. Il messaggio è uno solo, cioè noi stiamo bene nella nostra vita di relazione quando vediamo molto bene cosa succede tra di noi. Vale a dire, non si realizzano dei dispositivi di potere che hanno bisogno di mascherare qualche cosa. Io allora ti nascondo qualcosa perché sto facendo qualcos'altro. Io penso che come nella vita di relazione tra le persone, così nella vita di relazione sociale bisogna puntare a costruire una società trasparente dove tutti gli attori delle istituzioni sono messi nella condizione di poter cambiare i dispositivi di relazioni che non gli vanno bene, vale a dire istituire dentro le istituzioni un mutamento. l'istituire, la possibilità di istituire un mutamento, diciamo, legata anche alla possibilità, alla capacità di avere un'ampia consapevolezza.